Ma io, di tutto questo, non previdi nulla. Mi pareva, al contrario, che quella lettera avrebbe ottenuto il risultato di far tornare Albertina al più presto. Così, pensando a tale risultato, provai una gran dolcezza a scrivere la lettera. Ma nello stesso tempo non smisi mai, mentre scrivevo, di piangere. Un po', dapprima, nello stesso modo del giorno in cui avevo recitato la finta separazione, perché quelle parole, pronunciate mendacemente per fierezza, per non confessare che l'amavo, rappresentandomi l'idea che esprimevano, sebbene tendessero allo scopo opposto, portavano in sé la loro tristezza, ma anche perché sentivo che in quell'idea c'era della verità. Poiché il risultato della lettera mi sembrava sicuro, rimpiansi d'averla inviata. Figurandomi che il ritorno di Albertin fosse tutto sommato così facile, tutte le ragioni che rendevano il nostro matrimonio una cosa per me nefasta mi si riaffacciarono bruscamente con tutta la loro forza. Speravo che rifiutasse di tornare. Stavo calcolando che la mia libertà, tutto il futuro della mia vita, erano sospesi al suo rifiuto, che scriverle era stato una follia, che avrei dovuto riprendermi la lettera disgraziatamente già partita quando Françoise me la riportò assieme al giornale appena comprato. Non sapeva con quanti francobolli la dovesse affrancare. Ma cambiai subito parere. Mi auguravo che Albertin non tornasse, ma volevo che questa risoluzione per metter fine alla mia ansia venisse da lei. E decisi di ridare la lettera a Françoise. Aprii il giornale. Annunciava la morte della Bermà. Mi ricordai allora dei due diversi modi in cui avevo ascoltato Phèdre, e fu ancora in un terzo che pensai adesso alla scena della dichiarazione. Mi sembrava che quel che tante volte avevo recitato a me stesso e ascoltato in teatro fosse l'annuncio delle leggi che avrei sperimentato nella mia vita. Nella nostra anima ci sono cose alle quali non sappiamo di tenere tanto. Oppure, se viviamo senza di esse, è perché rimandiamo di giorno in giorno, per paura di fallire o di soffrire, il momento d'entrarne in possesso. È quanto m'era successo con Gilberte, quando avevo creduto di rinunciare a lei. Se, prima d'essere completamente distaccati da queste cose, il che avviene ben più tardi di quando ci si crede tali, la fanciulla, per esempio, si fidanza, ci sembra di impazzire. Non possiamo più sopportare la vita che poco prima ci sembrava così malinconicamente calma. Se invece ne siamo in possesso, crediamo che ci sia di peso, che ce ne disfaremmo volentieri, è quanto m'era successo con Albertin. Ma basta che l'essere che ci è indifferente ci venga sottratto da una partenza perché la vita ci diventi impossibile. Ebbene, l'argomento di Phèdre non riuniva entrambi i casi. Ippolito sta per partire. Phèdre, che fino a quel momento ha avuto cura di offrirsi alla sua inimicizia, per scrupolo, dice lei, o meglio le fa dire il poeta, o piuttosto perché non vede cosa potrebbe ottenere e non si sente amata, Phèdre non ce la fa più, va a confessargli il suo amore, ed è questa la scena che tante volte m'ero recitata. On dit qu'un prend de part vous éloigne de nous. Si può pensare, certo, che la ragione della partenza di Ippolito sia accessoria rispetto a quella della morte di Teseo. E allo stesso modo, quando alcuni versi più avanti Phèdre finge per un istante d'essere stata fraintesa, «Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire?» si può credere che sia perché Ippolito ha respinto la dichiarazione «Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux?» Ma se non ci fosse stata da parte di Ippolito questa indignazione, Phèdre, una volta raggiunta la felicità, avrebbe ugualmente potuto avere il senso del suo scarso valore. Invece, dal momento in cui vede che non l'ha raggiunta, che Ippolito crede d'aver capito male e si scusa, allora, così come io avevo ridato la lettera a Françoise, anche lei vuole che il rifiuto venga da lui, vuole giocare fino in fondo le sue carte. Ah, cruel, tu m'as trop entendu. E non c'è nulla finanche le durezze di Swan verso Odette di cui m'avevano raccontato, o le mie con Albertin, durezze che all'amore anteriore ne sostituiscono uno nuovo fatto di pietà, di intenerimento, di bisogno d'effusione, niente più d'una variante del primo, che non si ritrovi in questa stessa scena. Tu m'aimes plus, je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prétends encore de nouveaux charmes. La prova che il soin de sa gloire non è la cosa a cui Fedra tiene di più è che perdonerebbe Ippolito e si strapperebbe ai consigli di Enone se in quel momento non scoprisse che Ippolito ama Aricia. A tal punto la gelosia, che in amore equivale alla perdita di qualsiasi felicità, è più importante della perdita della reputazione. Fedra lascia allora che Enone, la quale non è che il nome della parte peggiore di lei stessa, calunni Ippolito senza farsi carico du soin de le défendre e consegna così colui che non la vuole a un destino le cui calamità, peraltro, non consolano affatto neanche lei, visto che la sua morte volontaria segue di poco la morte di Ippolito. È così, almeno depurando la parte di tutti gli scrupoli giansenisti, come avrebbe detto Bergotto, che Racine ha attribuito a Fedra per farla sembrare meno colpevole, che questa scena appariva ai miei occhi una sorta di profezia degli episodi amorosi della mia propria esistenza. D'altronde queste riflessioni non avevano modificato la mia decisione e restituii la lettera a Françoise perché la portasse finalmente alla posta allo scopo di compiere presso Albertin quel tentativo che mi sembrava indispensabile da quando avevo saputo che non era stato effettuato. E non c'è dubbio che abbiamo torto quando crediamo che realizzare il nostro desiderio sia poca cosa, dato che non appena crediamo che possa non esserlo, ci teniamo di nuovo, e ci sembra che non valesse la pena di perseguirlo solo quando siamo ben sicuri di non aver fallito. Eppure si ha anche ragione. Infatti, se la realizzazione, se la felicità ci sembrano piccole solo con la certezza, esse sono tuttavia qualcosa di instabile da cui non possono derivare che dispiaceri, e i dispiaceri saranno tanto più forti quanto più completa sarà stata la realizzazione del desiderio, tanto più impossibili da sopportare quanto più la felicità, andando contro la legge di natura, si sarà prolungata e avrà ricevuto la consacrazione dell'abitudine. In un altro senso ancora, le due tendenze, nella fattispecie quella che mi faceva desiderare che la mia lettera partisse e quella che, quando la credevo partita, me lo faceva rimpiangere, hanno entrambe in sé una loro verità. Quanto alla prima, è fin troppo comprensibile che noi rincorriamo la nostra felicità o infelicità e nello stesso tempo ci auguriamo di porre davanti a noi, grazie alla nuova azione che presto comincerà a produrre le sue conseguenze, un'attesa che ci distolga dalla disperazione assoluta. In una parola, che cerchiamo di far passare con altre forme che secondo la nostra immaginazione dovrebbero esserci meno crudeli, il male di cui soffriamo. Ma non meno importante è l'altra tendenza, la quale, nata dalla fiducia nel successo della nostra iniziativa, è semplicemente l'inizio anticipato della disillusione che proveremmo presto dinanzi alla soddisfazione del desiderio, il rimpianto d'aver fissato per noi, a detrimento delle altre che vengono ad essere escluse, questa forma di felicità. Resi la lettera a Françoise dicendole d'andare subito a spedirla. Partita la lettera, concepii di nuovo il ritorno di Albertin come imminente. Esso non smetteva di insinuare nel mio pensiero immagini graziose che neutralizzavano alquanto, con la loro dolcezza, i pericoli che vi scorgevo. La dolcezza, da tanto tempo perduta, d'averla accanto a me, mi inebriava. Il tempo passa. E a poco tutto ciò che si diceva mentendo diventa vero. L'avevo sperimentato anche troppo con Gilberto. L'indifferenza che avevo simulata quando non smettevo di singhiozzare aveva finito per realizzarsi. A poco la vita, come dicevo a Gilberto, con una formula mendace che era diventata retrospettivamente vera, la vita ci aveva separati. Me lo ricordavo, mi dicevo, se Albertin lascia passare qualche mese, le mie bugie diventeranno una verità. E adesso che il peggio è passato, non sarebbe da augurarsi che lo lasciasse passare quel mese? Se torna rinuncerò alla vita autentica che certo non sono ancora in grado di gustare, ma che, mentre il ricordo di Albertina andrà affievolendosi, potrà gradualmente cominciare ad avere per me un qualche fascino. Non dico che l'oblio non cominciasse a compiere la sua opera, ma tra gli effetti dell'oblio c'era proprio quello di far sì che molti dei lati spiacevoli di Albertina, delle ore di noia che passavo con lei, non si presentassero più alla mia memoria e cessassero dunque d'essere motivi per desiderare che lei non fosse più presente come speravo quando ancora lo era, quello di darmi di lei un'immagine sommaria, abbellita da tutto l'amore che avevo provato per altre. In questa forma particolare l'oblio, che peraltro lavorava ad abituarmi alla separazione, mi faceva, mostrandomi Albertin più dolce, desiderare maggiormente il suo ritorno. Da quando se n'era andata, molto spesso, se mi sembrava che non fosse possibile accorgersi che avevo pianto, suonavo per Françoise e le dicevo: «Bisognerà vedere se Mademoiselle Albertine non ha dimenticato niente. Ricordatevi di rifare la sua camera, perché sia bene in ordine quando tornerà». O semplicemente: «Proprio l'altro giorno, ma sì, proprio il giorno prima di partire, Mademoiselle Albertine mi diceva», facendo intravedere a Françoise che l'assenza di Albertine sarebbe stata breve. Volevo diminuire il detestabile piacere che essa le procurava. Inoltre volevo dimostrarle che non temevo di parlare di tale assenza e fargliela apparire, al modo di certi generali che chiamano ritirata strategica e conforme ai piani previsti gli arretramenti forzati, come voluta e come un episodio di cui tenevo momentaneamente nascosto il significato, non certo come la fine del mio rapporto con Albertine. Nominandola continuamente, volevo infine far entrare, come un po' d'aria, qualcosa di lei in quella camera dove la sua partenza aveva fatto il vuoto e io non respiravo più. E poi si cerca di diminuire le proporzioni del proprio dolore facendolo entrare nel linguaggio parlato fra la richiesta di un vestito e gli ordini per il pranzo. Rifacendo la camera di Albertine, Françoise, curiosa, aprì il cassetto d'un tavolino in bois de rose dove la mia amica metteva gli oggetti intimi che non teneva su di sé quando dormiva. «Oh, signore, Mademoiselle Albertine ha dimenticato di prendere i suoi anelli. Sono rimasti nel cassetto». Il mio primo impulso fu di dire: «Bisogna fargliela avere». Ma avrebbe dato l'impressione che non fosse sicuro del suo ritorno. «Bene», risposi dopo un attimo di silenzio. «Non ne val la pena, visto che sta via così poco. Dateli a me. Ci penserò io». Françoise me li consegnò con una certa diffidenza. Detestava Albertine, ma giudicandomi sul proprio metro, immaginava di non potermi affidare una lettera scritta della mia amica senza temere che io l'aprissi. Presi gli anelli. «Il signore stia attento a non perderli», disse Françoise. «Bisogna dire che sono proprio belli. Non so chi è che gliel'ha dati, se il signore o un altro, ma è di sicuro uno ricco e che ha del gusto». «Non sono io», risposi. «E poi non vengono tutti e due dalla stessa persona. Uno gliel'ha regalato sua zia e l'altro l'ha comprato lei». «Non dalla stessa persona», esclamò Françoise. «Il signore vuol scherzare. A parte il rubino che hanno aggiunto su uno, sono uguali. C'è la stessa aquila su tutti e due, le stesse iniziali all'interno». Non so se Françoise sentisse quanto male mi faceva, ma cominciò ad abbozzare un sorriso che non lasciò più le sue labbra. «Come la stessa aquila, siete pazza? Sì, su quello senza rubino c'è un'aquila, ma sull'altro è cesellata una specie di testa d'uomo». «Una testa d'uomo? Ma dove ce la vede il signore? Mi sono bastati i miei occhialetti per vedere subito che era una delle ali dell'aquila. Se il signore prende la sua lente, vedrà l'altra ala sull'altro lato, la testa e il becco in mezzo. Si vedono le piume, una per una. Ah, è proprio un bel lavoro». Il bisogno ansioso di sapere se Albertine mi aveva mentito mi fece dimenticare che avrei dovuto conservare un po' di dignità di fronte a Françoise e rifiutarle il piacere malvagio che provava, se non nel torturare me, perlomeno nel nuocere alla mia amica. Mi mancava il respiro mentre Françoise andava a prendermi la lente. La presi, chiesi a Françoise di farmi vedere l'aquila sull'anello col rubino, non ebbe difficoltà a farmi riconoscere le ali stilizzate nello stesso modo che sull'altro anello, il rilievo di ciascuna piuma, la testa. Mi fece anche notare delle iscrizioni simili, alle quali, tuttavia, sull'anello col rubino se n'erano aggiunte altre, e all'interno di entrambi le iniziali di Albertine. «Mi fa specie che il signore abbia avuto bisogno di tanto per vedere che era lo stesso anello», disse Françoise. «Anche a non guardarli da vicino si intuisce la stessa mano, lo stesso modo di lavorare l'oro, la stessa forma. Solo a dargli un'occhiata avrei giurato che avevano la stessa provenienza. Si riconosce, come la cucina ad una buona cuoca». E in effetti, alla sua curiosità di domestica, attizzata dall'odio e abituata a notare particolari con una precisione spaventosa, s'era aggiunto, a guidarla in questa expertise, il suo buon gusto, lo stesso che dimostrava in cucina e che nel suo modo di vestire era forse ravvivato, me ne ero accorto il giorno della partenza per Balbec, dalla sua civetteria di donna che è stata bella, che ha guardato i gioielli e i vestiti delle altre. Se, rendendomi conto d'aver bevuto troppe tazze di tè, avessi confuso le scatole delle medicine e invece di prendere qualche compressa di Veronal ne avessi prese altrettante di caffeina, il mio cuore non avrebbe potuto battere con più violenza.